Zot. Fulminati in azienda. Schedula, in questa azienda manca la mobilità interna. Sono contenta, Marco, che anche tu la pensi così. Perché mettersi a cercare profili di manager e collaboratori all'esterno quando dentro abbiamo tante risorse che vogliono crescere o cambiare ruolo? Ecco, Schedula, te lo dico io perché. Perché quando proponi uno scambio dei ruoli in azienda è come mettere le mani in un vespaio. E vespe te pungono, te inseguono e rischi o pure lo shock anafilattico, hai capito? Vuoi dire che noi non abbiamo il coraggio di proporre uno scambio di ruoli in azienda? È questo che stai dicendo? Se posso intervenire nel mio ruolo di consulente, colgo che in questa azienda manca la mobilità interna. Bravo, meno male che c'è il nostro consulente che mi toglie sempre le parole di bocca. Ma facciamo così, guardate, prendiamo un ruolo scoperto. Per esempio il direttore amministrativo che si è licenziato 2 giorni fa. Benissimo, ecco, invece di assumere uno nuovo ci mettiamo a intervistare tutti i colleghi che vogliono cambiare lavoro. Eh sì, vuoi vedere che la fonte invece di occuparsi del cocktail aziendale bignè per i giornalisti mi decide di andare a occuparsi del bilancio della società? Credo che sia necessario intervistare tutti i colleghi che vogliono cambiare lavoro per trovare il nuovo direttore all'interno. Se lo dice il nostro super consulente, il vostro direttore generale dice sì. Meraviglioso! Finalmente potrò trascorrere le prossime settimane chiuse in un camerino a fare colloqui, proporre assessment, compilare questionari. Scusate, è meraviglioso! Scusate, ma invece dei farsi questionari, ma perché non chiedete direttamente alla portinaia da reception, che sa sempre tutto e tutti? Fanno prima almeno, no? Ho preparato qui circa 500 slide in PowerPoint con tutte le domande da porre ai candidati. Ecco, va benissimo, ma non dimentichiamo la domanda fondamentale, che è: caro subalterno, sei disposto a fare un nuovo lavoro, continuare anche con quello vecchio e prendere la stessa paga di adesso? Ecco Marta, abbiamo saputo che tu sei interessata a cambiare ruolo. Certo, io credo nella job rotation, nella crescita manageriale che deriva da nuove esperienze. Dimmi, hai mai pensato di fare il direttore amministrativo? Beh, io nella mia carriera ho sempre amministrato spese strategiche, non so, i fiori della reception, i dessert delle convention, sì, sì, esperienze. Ma se tu diventassi direttore amministrativo, dico, quale contributo offriresti tu proprio? Beh, per esempio, dovendo chiudere il bilancio, lo metterei in uno scrigno tutto rilegato in seta araba, con caratteri oro, una copertina di damasco rarissimo. Sì, ecco, detto tra noi, tu conosci la partita doppia? Ma certo, lo scorso anno ho organizzato tutto io al circolo del tennis. Dunque Pacco, dopo questo 30° stage con noi abbiamo pensato che lei è maturo per una rapidissima, direi verticale, crescita professionale. La sa che mi sono sempre disponibile a crescere, basta che mi fai prima o dopo un contratto a tempo indeterminato. Ecco, stiamo cercando all'interno un nuovo direttore amministrativo. Lei ritiene di avere queste competenze? Sai, è un ruolo che richiede una maturità professionale. Ma mi la maturità la go, eh. Go anche la laurea e 2 corsi di specializzazione. Allora Schedula, come stanno andando i colloqui? Non è facile perché all'interno dell'azienda molti vorrebbero cambiare ruolo e fare il direttore amministrativo, ma o mancano di competenze o sono troppo junior. Schedula, non è che hai chiesto a tutti meno che ai ragionieri, che magari uno che sta là da 20 anni ci avrebbe pure le carte in regola per fare la carriera e così lo potremmo trovare lì. Sì, però non hanno un profilo manageriale, centrifuga, sono tutti ragionieri, qui ci vuole qualcuno che abbia una vista larga. E che voi delle risorse umane siete primi dei pregiudizi, sarà possibile che uno di quelli dopo 20 anni che lavora là può fare carriera? No, basta, io sono stufa, centrifughi, io sono stufa di essere sempre stigmatizzata. Basta, stop. Adesso decido io. C'è bisogno di un nuovo direttore amministrativo? Troviamo un buon manager da fuori. Ma non si era detto che volevamo valorizzare le risorse interne? Sì, sì, ma quello era un principio. Uno che viene da fuori però ci porta nuova esperienza. A proposito, tra l'altro, ho giusto qui un curriculum di un amico consulente che ha fatto il revisore contabile. Ma capo, ma quello che ne sa di management? Ha sempre fatto il consulente. Appunto, appunto, Centri. La sua mente è vergine. Giusto quella. Se vuoi saperne di più, www.zoot.tv 3Z2O 1T.